casa, quindi grossi, con luci, con tutto, dovrei smontarle tutto, è un casino, se no te l'avrei fatto io. Grazie, troppo gentile, ci sentiamo alla prossima, già, scusa, devo chiudere adesso, grazie ancora. Ciao, ciao. Per uno, quindi non ce n'è uno che vale, guarda, lascia perdere che non le voglio manco parlare, non ve ne è uno che ha fatto nulla, noi siamo sempre indietro come il gambero, noi siamo sempre indietro, e questo lo sappiamo già da tanto tempo, cioè è traduito, si fa una legge che ti mette a culo a terra, entra quest'altro, ci sono un'altra legge che ti mette a culo a terra, che cazzo dobbiamo fare? Ma lasciamo perdere, va. Non arrabbiatevi, non vi state arrabbiare. No, io sono tranquillissimo. Antonio che si accende un po' quando parla, ma non è arrivato. Ciao. Sa, mi hai sentito? Capo. Ciao Gianni. Salutone di Antonio, e intanto ormai la padella sta per traboccare. E a Fedighi, si venga anche in ribellione, succede qualche casino, perché non è possibile continuare così. Non si sente altro gente che si lamenta perché non gli basta adesso di a fine mese, che non riesce a fare manco la spesa, eccetera, eccetera. Specialmente i pensionati che stanno moccheggiando proprio, diciamo la verità. Purtroppo questa è la realtà. E no, non si vede nessuno spiraglio, non si vede nessun movimento. Cosa si stia aspettando non ho capito. Ma comunque, prospettive a quanto pare non se ne vedono. E a quanto pare stiamo aspettando di finire proprio sottoterra per muoverci in qualche maniera, perché se dice che questi politici siano validi. Dovrebbero fare qualche cosa anche per smuovere qualche cosa, un po' di lavoro per qualcuno che ne ha bisogno. Buonasera Sandro, se ti smuovi e fai casino, il principale cosa fa? Il padrone cosa fa? Prendono e chiudono l'azienda, se fai da bravo ti tratta la pesce in faccia, cioè in qualche maniera lavori, ti tratta la pesce in faccia, cosa dobbiamo fare? Non ci sa più che cosa che piace prendere. Il problema è questo, siamo sempre loro dalla parte del manico, chi dovrebbe fare politica, queste cose qua le dovrebbe far finire, è quello che si chiede, è quello che chiedo io, che chi fa politica dovrebbe far finire queste cose. Cioè, tu fai casino, fai sciopero, bomba, tu ti rompi le palle, ecco, fa una cosa, ci arrabbiata io. Lavori e ti trattano a pesci in faccia con stipendi, per carità di Dio, che manco in certe ditte, manco a vederne, cosa ci deve fare? Tu, io dico una cosa, che se si sta con la coda fra le gambe non si ottiene niente. Un minimo di lotta ci deve essere, non lotta, diciamo un punto d'accordo. Lo so che anche i sindacati adesso sono un po' così venduti, perché ce ne sono tanti che vedono la bustarella e fanno quello che vuole principale. Quelli vogliono prendere si la da balla, amore. Il sindacato da quanto ha fatto bene ha fatto anche del male, guarda. E te lo posso dire, da tutto ciò che ho sentito, ho letto con gli occhi miei, da quanto ha fatto bene ha fatto anche del male, perché sono corrotti, sono dei corrotti, cioè, e molte volte fanno a rompere le palle a magari a chi, alla vita che sta facendo bene, cioè, che è un pochettino così così, magari vanno dalle persone sbagliate, fanno più danno che altro, guarda, lasciamo perdere. Dovrebbe il sindacato far rispettare le leggi, tutto lì. Siccome molti principali le leggi non le rispettano al 100%, come dovrebbero, non pagano quello che devono pagare, eccetera, eccetera. Normale che ce l'abbiano con i sindacati perché mi rimettono davanti la legge, e da lì non si possono tirare indietro. Certo che loro sono antipatici, le persone che sono iscritte al sindacato, quello è poco sicuro. Chiappa, ma quelli lì vogliono pure sparati, cioè, sono gente proprio che, qua, chi si dà canto di buoni betti va per un cabo in tre, lasciamo perdere, già lo sai anche tu, l'hai visto con gli occhi tuoi. Sì, sì, è vero, ce ne sono così, ma non sono tutti così. Alessandro. Ehi, ya. Proprio dai, ti sto seguendo, mi sto ultimando delle cosette qua. E le ricette. E vabbè, ma intanto la cosa è il discorso. Chi ci piange è sempre il piccolo. E allora? Così? Vediamo gli affari così che ti vuole l'allegria, sennò queste cose qui ti fanno incazzare, buonio. Ho già. Giudito, va a vediamo di cacchia fra cosa. Sennò queste cose ti vado ad incazzare. Non lo credo che mi vado ad incazzare, sto trovando da mille. Uioia, poveri operai. Oh, alcuni già se ne è piccato a Bulwetti, anche soprattutto quelli della Fiat, a Senteischi, chi si è piccato la, come ti dice, da Sarese. La Malabacca era con i lampioni. La gappa, è proprio così, soprattutto nella zona, nello stabilimento vicino a Napoli, lì. Io mi sono aggiustato da un bel, ma comunque. Ma va, quelli che ci hanno impiegato si sono tenute. La colpa è la loro, quella lì. Io ho seguito tutta la storia anche, e quindi le so le cose, che non sono più imbecille. Io sono tu. Purtroppo per quei pochi che fanno gli assenteisti, che fanno cose che non devono fare, si piangono tutti. Diciamo che loro fanno in fretta a chiamare gli assenteisti, bisogna vedere se sono anche assenteisti o se sono motivate le assenze che fanno. Ma quando uno comincia già, cioè, c'è gente che non ha voglia di lavorare, ma veramente, cioè, l'abbiamo constatato anche noi. Anche noi, che è nel nostro campo, proprio nel nostro campo, anni addietro, sono state prese dalle persone che hanno durato neanche mezza giornata. Vergognoso, Che è il mio. È venuto uno per sostituirmi quando vado in ferie, è scappato, mezza giornata è scappato. Una vergogna che esistano queste persone. Sono la rovina delle ditte, le aziende. Purtroppo ci sono anche quelli in mezzo, che fanno sì che succedano anche certe cose. Tu vuoi che te lo dica? Chi più lavora è meno quotato dall'azienda, perché io me ne accorgo. Anche dove sono io c'è gente che si ne ha fatti un belle scatole ed è ritenuto superiore a te, che tu ti fai il culo dalla mattina alla sera, capito? Vai a dirgli una cosa, ti dice non è compito mio, e via dicendo, risposte del genere. Però non si accorgono che quelle persone lì stanno rovinando l'azienda, che sono certe persone che lavorano veramente, e quelli lì sono quelli che mantengono tutto. Non se ne accorgono perché c'è sempre il fesso che gli fa il lavoro, capito? Il giorno che si gira le palle, fa il suo e buffa. Troppa gaffa. Ma non va bene, dai, non va bene. Oh, quelli non li posso manco vedere io, Una ciappuglienti del genere, no? Non la sopporto, non la resisto, guarda. Io fosse l'autista, fosse di tutto, non ho mai detto non è compito mio, quello che c'è da fare figlio e faccio, non ne ho problemi. Invece quelli di adesso, quelli che stanno prendendo stanno prendendo come stagisti questi che mi danno 300 lire a cosa. Ne ho ripreso uno l'altro giorno, una ragazza che praticamente a questo stagista gli hanno detto se questa cliente che zoppa, ha detto se l'aiutava a caricare la roba in macchina. E l'altra stagista gli ha detto no, a te non ti spetta quello lì. Oh cavolo, gli ho detto, scusa, perché non rispetta? Perché lo dobbiamo fare anche quello? Ho detto, beh, state lavorando qua, se gli chiede una cortesia, cioè non è che dici di no. No, vabbè, non lo sapevo, ma... Ti ho pagato, per carità, guarda. Non essere gentili nella distanza, bisogna avere la gentilezza. Anto, andiamo sull'umoristico. Una volta vedo questo signore che stava caricando la spesa, questo è in estate, doveva essere un turista. Io ho visto che aveva delle difficoltà a prendere le borse e cose. Non posso dargli una mano? Mi giro, grazie della senza un braccio. Ma bai dato come ti dico, grazie la mano. Quindi io molte volte vengono con le signore anziane, quei ghisti un po' caretto, di una certa età prendo gliela metto io, problema. Sì, ma essere gentili non ci perdi mai, non ci perdi mai. Perché a me è successo, per dire, una volta sono venuti dei turisti. E mi hanno chiesto una mano per mettere della roba nel camper, ma avevano preso un bel di roba, birra, un bel di roba. E gliel'ho data, non c'era problema, c'erano la stiva sotto nel camper. E mi l'ho messa tutta dentro, la birra tutta bella sintata, l'acqua, tutto qua. Ma ne stavo andando, mi ha detto, no aspetta. Ha pigliato. In mano 20 euro. Capo, no, sei gentile già, no, quello bisogna essere, poi il cliente bisogna comportarsi sempre bene, perché poi alla fine la faccia ce la stai mettendo tu, ce la stai mettendo, non è il cacumato, non è nello principale niente, in quel momento ci sei tu, quindi la gentilezza è quella che conta, e poi il cliente, se tu sei gentile ti ritorna. Anche se la vedi da qualcun altro ti costa qualche puntina in meno, da te non ci va, magari perché sei capone, da te fa perché tu sei gentile e ti hai trattato bene. Sì, a volte la gentilezza, il sorriso, quattro scambi di parole, contano più magari del prezzo della merce, perché molti anziani vengono a comprare per scambiare quattro chiacchiere, si comprano per dire due limoni, una fesseria, tanto per stare a raccontare, a parlare, perché magari sono soli, no? E allora per scambiare quattro chiacchiere vengono lì. Ciao. Cioè, invece è gentile, però, è giusto che sia così, anche perché per un giudizio sul lavoro, perché se tu c'è una persona in gamba, c'è una persona veramente come si deve, non ti possono dire niente, capito? Se tu gli fai la faccia del culo, che non mi torna più e ti dicono vanno tagliati i posti, ti dicono che tu sei un infame, che sei chi ti può aiutare. Oh Gianni, ascolta, le informazioni a Sassari, non so se tu lo sai o meno, un negozio adesso tipo quello di musica, tipo quello di Farris, non so se hai mai sentito un tipo di microfono, lo Kale Sound. No, negativo, non lo conosco. Tu vuoi comprare quel tipo di microfono così? Positivo. Allora, ce n'era uno in via Manno prima, ma non so se esiste ancora, Ce n'era uno in via Manno. Proprio a fianco a Multiridu, quello che c'è per intendere. in via Manno, ce l'ha presente? Via Manno no. Allora, fai via Umberto. Ti trovi la traversa, quella che va in Piazza d'Italia, la prima traversa, lasci quella, la seconda, la prendi e svolti a destra, quella dritta scendendo via Manno. Ho capito. No, perché ho provato a vedere su internet, però non mi dà niente. Diciamo che sono dei microfoni professionali che provengono, diciamo, di nascita dalla Germania. Non sono tipi di microfoni che io ho mai trattato, quindi non li conosco. Comunque, negozi di musica, c'era anche una pedanita, adesso che ci penso. Sotto la bandiera gialla. Che ne hanno aperto uno in via San Francesco, sono stato. Niente, sotto bandiera gialla? Sotto. Ho capito. E vabbè, dai. Va bene. È quello, c'è quello di San Francesco. C'è quello che vende cuffie, casse, che c'è. Tutto. Aiuta, dove avete preso il subwoofer? Via. Via 4 novembre. Via 4 novembre, proprio lì. Dove c'è, non ci deve arrivare dove c'è la C, è più giù, dove c'è la, come cavolo si chiama, va? Vicino dove c'è il palazzo, dove ci sono le assicurazioni, lì è, mi sembra, non mi ricordo male. Befangolo, più su di Fusaro rimane. Giù di Fusaro? Più giù c'ho. Giù di Fusaro, dove Fangolo via Galilei. Sembra, non mi ricordo male. E mi sembra che sia per Galilei una via. Fangolo lì. Comunque è il palazzo nuovo. Lo vedo tutta la wifi, stereo, cuffie. Sennheiser, sono tutte cose professionali. C'è la Hertz, già lo sai. Beh, Hertz è una delle migliori case che c'è adesso. E se io ho sempre preferito la Sony. No, perché sono, diciamo, dei microfoni particolari. Diciamo che usano, diciamo, le case discografiche, sale di registrazione, qualcuno, diciamo, appassionato che canta, diciamo, e così via. Addirittura hanno diciamo, delle capsule in ceramica e poi hanno un avvolgimento, diciamo, tutto particolare, insomma, dei microfoni particolari. Sai che potresti chiedere? A Stefano Principe, perché lui canta e questi tipi di microfoni li conosce. Stefano, il nostro amico, un amico mio di Giampaolo, là. Sì, ho capito. Va bene, dai, ok, sono da qua, certo. Da noi siamo posti, certo. Vado alla ricerca di qualcosa, certo, non trovi neanche un euro. Sigue, cioè oggi, al giorno d'oggi, su internet puoi far arrivare tutto, diciamo, in capo al mondo e così via. E addirittura ci sono delle cuffie con microfono particolari che usano, diciamo, anche possono usare radioamatori, CB e così via. Hanno delle capsule, diciamo, microfoniche, tutte particolari, insomma, Ragazzo. Sì, ce ne sono, la voglia. Ci sono dei radioamatori che usano quei microfoni a pedale, quelli professionali, che rendono sono perfetti come voce, non la senti amplificata, la senti forte e chiara, la tua voce perfetta, in un modo così brillante che più brillante non si può. Esatto. Esatto, la maggior parte usano un tipo di microfoni, della Kale Sound, diciamo proprio fabbricazione tedesca e così via, fanno microfoni per, infatti la maggior parte dei radioamatori usano tutti questo tipo diciamo di cuffie e col microfono abbinato, perché io ho guardato lì su internet e mi sono documentato un po' e la maggior parte usano tutti questo tipo qua. Però in vendita non si trova così? Sì, no, in vendita ci sono, liberamente diciamo. C'è qualcuno su, io ho guardato lì su tramite internet, ci sono, però diciamo bisogna vedere se sono gli originali oppure se sono diciamo che derivano diciamo magari da qualche altra casa, ma diciamo che le cose, perché volendo proprio dalla Germania te le puoi far arrivare, perché magari li trovi, perché io li ho visti, adesso c'è quel sito dove vengono diciamo tutti apparati diciamo per la ricetrasmittente, CP, diciamo così via, ci sono queste cuffie particolari di questa marca qui, cuffia microfono, diciamo professionale, la più abbordabile costa 380 euro. Eh beh, la cosa buona si fa, tanto non deve essere certa. La cosa buona è così, si paga. Però se uno c'è la passione su una cosa, io sono fatto così, se a me mi piace una cosa, anche se costa molto, metto su di una parte e me la prendo lo stesso. Quando mi piace che sono fissato su una cosa è così e buffa. Sì. Sì, poi diciamo che dipende dalla passione, diciamo, e così via. Vabbè, io diciamo che ho sempre la, diciamo, la passione dell'hobbistica, diciamo, e io la maggior parte mi metto lì tramite lo schema, diciamo, a autocostruire, a fare, a riprovare questo e quell'altro. E niente, per caso avevo sentito parlare di questa marca qua e infatti mi sono documentato, la maggior parte dei radioamatori usano tutti questi microfoni, tutti queste cuffie con microfoni, ma ci sono anche microfoni da base, sempre di questa marca qua, microfoni da base, poi ci sono i microfoni tipo studio, col braccio, tipo ancora, insomma ce ne sono belli, però cazzo, sono prezzi allucinanti, cioè prezzi allucinanti dal quale diciamo sta prendendo roba professionale, tutto lì. Sì, ma l'uso che devi fare tu qual è? Non ho capito se è per le radio che ti servono o se devi fare uso a livello di canto, roba del genere. No. Io lo voglio fare per la radio, capito? Adesso mi dirò, guarda, non ti passa come sei. Vabbè, non te lo dico perché uno cerca sempre di migliorarsi di più, c'è poco da fare. Sì, ma vabbè, diciamo che da parte mia diciamo non è che voglio diciamo mettermi in evidenza né proporzione agli altri o perché voglio essere superiore o così via, perché io diciamo adesso vari mic che ci ho adesso per dire l'MP9 gli ho fatto qualche accorgimento, l'MP4 gli ho fatto qualche accorgimento, insomma, e ho migliorato diciamo lì il tono di voce, la modulazione. Infatti come ti avevo detto già in passato, io non esco col mic normale, ma esco abbinato diciamo con un mixer. fare, sì, sì, c'è tanta gente che l'ha fatto, anche Pinangelo, quello di Alghero, c'è quel mix. Insomma, che ha una passione, l'ha fatto Roberto Quadrato, ha fatto alcune prove con queste cose qua, però dico sempre che ha una passione, che ha avuto queste strumentazioni, non è che poi a comprarsi la posta a fare le prove col mixer, che per regolare il tone, che per regolare tutto. Sì, diciamo, chiamiamola passione, chiamiamola diciamo, chiamiamola hobby, chiamiamola come vuoi. Io adesso qui sto usando il mixer e sto usando diciamo un mic diciamo dell'MP4 con un accato sulla, se te lo dico te ti metti a ridere. La dici top? Allora, no, è una capsula, diciamo, del, non del citofono, del, come si chiama, di quello radioline, piccoline a ricce trasmettenti, ma è una capsula, cosa ti posso dire, molto più piccola dell'unghia, eh. Ci credo, a volte quelle cose lì sono fatte più definite meglio. Io c'ho un portatile che è una bomba. Esatto, sì, no, per dirti, perché al giorno d'oggi diciamo ci sono mic professionali, mic, adesso mic buoni da base, per dire c'è lo Shure io l'ho avuto, diciamo, un signor mic, però per abbinarlo al tono di voce gli adegui un mixer e cerchi diciamo di abbinare il tuo tono di modulazione, perché se no può essere buono quanto vuoi il mic diciamo da base, però se non va diciamo con la tua tonalità di voce diciamo hai perso. A me lo stai dicendo, io ne ho provato mille per la mia tonalità di voce, di microfoni. Gli unici che mi vanno bene questi con l'eco, vanno molto meglio degli altri, mi danno più una modulazione più corposa, più calda. Perché diversamente la modulazione mia, puoi provarla col TRP3, con lo Shure, perché io li ho avuti tutti e due. Niente da fare, mi dicono tutti che sì, è forte, ma non è come si credeva. Antonio, ci sei? Antonio è scomparso, sei drumito. Antonio evidentemente sta facendo la cosa, lui va da. Comunque, adesso un'altra pagionata. Prendi un pezzo di plastica, diciamo di quello sottile che puoi lavorare, allora lo fai diciamo a cono, a tipo tubo, a tipo diciamo il muso. La parte piccola diciamo la metti lì sul microfono, diciamo da base, e poi lo fai uscire fuori. Tu con la tua tono di voce rimane rimbombante, ti rimbomba la modulazione. Ma tante volte, allora per dire, nell'MV+5 io ho tolto quella membrana che c'è in lamiera, perché dava la voce metallica. Sì, esatto, dalla casa diciamo esce diciamo con questa ghiera diciamo che viene saldato, solo diciamo per la far metallica, tutto lì. E vabbè, vai, diciamo che c'è da perderci la testa. Vabbè già, io ti lascio, vai. Ti lascio che devo organizzare un attimino qui per domani, tutto lì. Gianni, tutte le prossimine. Ciao, buonanotte, dai, ci sentiamo, buona giornata per domani. Comunque prova a chiedere a Giampaolo di chiederlo a Stefano, che Stefano sicuramente ti sa dare una dritta. Dio capo, adesso vediamo questi giorni, vediamo un attimino. Ok, ciao Gianni, con tutto alle prossimine. Ciao, buonanotte. Avanti Anto. Ciao, buonanotte. Ci sentiamo alle prossimine. E dove hai finito? Che ti abbiamo chiamato 2 o 3 volte. capo, mi stavo facendo un conto. Adesso sono arrivato. Cos'era questo rumore? Questo? No, si sentito come un eco che faceva shh, però con l'eco. No, lo sono già. E magari ha prevuto male importante. No, negativo. E comunque questo microfono che ti dice che costa minimo 380 euro, quello che costa di meno. Che cavolo di microfono è? Microfono professionale, che solitamente si usa per cantare, no? E lui lo vuole mettere per perfezionare la voce, per perfezionare la voce lì alla radio. Dinamico, no? Sì, è dinamico, si attacca al mixer e poi si regola come vuoi, te lo fa tipo amplificato. Però la radio è perfetta a questi professionali, non puoi dire ba. Sì, già va bene. È come quelli che usano nella radio, dai. Cos'è questa musica? Telefono. Un telefono do io? No, non è mio. No. Però lì è la memoria che mettono per ricordarsi le cose, no? Poi magari ti scrive, togliere la carne dal freezer e fare chi suverà. Ah, gappa gappa. Ho capito. Io. Quando io non lo uso mai, lo usa molto mia moglie, quando si deve ricordare una cosa la mette nella memoria e poi la chiama. Anche i compleanni, tutte queste cose qua, per ricordarsi di suonare, sa fare qua, e li mette compleanno per dire di Rita. E campagliava. E sono abituato all'antica, va. Vabbè, un promemoria è mio, se non ti va a mente, almeno te lo ricorda lui. Per dire, lunedì devo fare questo, questo e quell'altro, ti suona il coso e ti scrive quello che devi fare. Pagata. Noi siamo abituati all'antica, invece. E vabbè. Non ve lo faccio letto. No, tutto a mente. Quando ti va a mente, a mente. A me prima non me ne sfuggiva una, mi dico, se voi se fate un mille non me ne sfuggiva una, adesso sto cominciando a toppare un po'. Pure noi già ce ne segniamo le cose, nei negozio, se no, no, fai questo, fai quell'altro, fai quello, no, non riesco a fare niente. Cioè, alla fine, che su che devi fare non lo fai. E beh, poi non te ne ammetti, perché non devi fare un bel ricorso, non te ne ammetti al tuo buco di fa. Io molte volte passo in un negozio, devo lasciare magari, che ne so, un foglio, una cosa, passo, lascio l'altra roba e me ne dimentico. Poi guardo il sedile, ci dice il foglio sul sedile, la prendo, mi fermo di nuovo, muoio. Scappa. Se sono me di volte, oppure fare una consegna, devi andare a quel punto lì, c'ho 5-6 consegne sul furgone, passo dritto. Allora faccio quella dopo, poi ritorno indietro. Abbiamo un sistema di lavorare, le mettiamo tutte in fila, mettiamo e man mano che fa, le facciamo tutte, le mettiamo in buoni. Chi ha chiamato prima, chi è la più vicina o la più lontana, dipende. La facciamo così, cioè, lo facciamo in ordine. Meno che non ci sia qualcuno più in fretta, allora abbiamo. Poi quelle le prenotazioni, per esempio, per i ristoranti, per le cose, perché a una certa ora devi portargliela. Quindi abbiamo una bacchetta, siamo tutti lì. Hai capito? Ieri anche io lavoro così, io guardo sempre quello che mi viene più vicino e poi non viene di vicinanza di strada, faccio le consegne. Poi anche io, se c'è qualcuno magari tipo cosa di busto di lattare, tasche apposta, qualche uno tipo gli asili che la vuole prima, allora salto le altre. Che vabbè, tanto più o meno sai cosa sono, orario questi, sai quando ci devi andare. Sì, gli asili sono ogni mattina. E hanno l'orario. Come entri devi subito caricare e portarli, perché devo preparare la roba, tagliarla, lavarla, farla, se c'è verdura, capito? Anche noi sui locali, per esempio quello che posso dire, il bullying, andiamo verso le 6, già il cliente andiamo verso le 7, le 7 siamo lì, dai, si sveglia Napoli, idem. Più o meno siamo, se chiamano tutte e due, di solito è il venerdì che abbiamo tutto questo giro, o dipende dai giorni alternati, o se vuol Dio, alcuni chiamano. Dito, cosa ne c'è, quello di Calaberto chiama, se le fa portare, cioè chiama la mattina, a una certa ora se le fa portare, alle 11:30 noi siamo lì, capite? No, è così. Tu mi devi organizzare il lavoro, poi quando telefonano loro ti dicono vai qua, vai là, ti disorganizzano tutto il lavoro che tu ti hai organizzato. Cappa. Ebbene, a questa ora sì, la merce la deve arricchare, per poco lì va, dopo deve recuperare. Ma è il giorno che mi ammazza di più, il martedì. Scappa, il venerdì non è stato attivo tutto quel video lì. Qualcuno chiama anche il venerdì, Poi, dopo per il sabato ci abbiamo una cosa solo. O succede così, o il venerdì sera o il sabato mattina. Abbiamo un altro. E noi mi ammazzano martedì perché lunedì non facciamo consegne, consegniamo solo la roba grossa, per dire studi dentistici, tutte queste cose qua, gli asili, però non facciamo né domicilio né cose piccole. E quindi tu si ricorda tutto quanto sul martedì, che vanno tutti i martedì a fare la spesa. Avanti, il cardellino. Ragazza, funziona così, funziona da noi. Noi sappiamo che ISO, quello lì la può finire. Per esempio, l'altro giorno mi stavo leggendo, non ci siamo fatti di venerdì sera, perché eravamo da fare, siamo la prima mattina. La pizzeria, l'unica cosa, perché gli altri che entrava dietro, vabbè. Siamo andati, cioè ci abbiamo tutto calcolato, oramai è così. Noi quando ci avevamo i cinesi era tutto il venerdì anche, che c'erano per il lavoro. Adesso i cinesi non sono più facendo. No, solo piccola per la stufa. Qualche volta abbiamo fatto anche quelli là, perché li prendono per alcune cose. Caricare. Quelli la calefficina che fanno, ho visto su internet un video, mi ha lasciato colpito anche per due o tre settimane. Ho visto quel filmato. Mi ricordo, non voglio manco vederlo. Carità di Dio, non si regali vivi, così ammazzano. Mamma, adesso cosa mi doveva capitare a me? Doveva che pitbull, che si sia ventennato. Se che vorrai, hai visto come fanno? Mamma mia, non hanno pietà di nulla. Cioè, sono più canieri di cani che ammazza. Ciao, so. Ma io glielo ho detto a una. Un giorno siamo entrati in un negozio di cinesi e c'era un giubbotto e lei ha detto guarda c'è anche la pelliccia bella, e ha detto che cos'è cane? Ah. E lei ha detto sì sì cane cane, e si è messo a ridere. Ma io niente. Aspetta mia moglie, io. Stavo cercando un giubbotto per lavoro. Ma mi ha fatto impressione c'era la pelliccia a me. Caccio meglio. Dopo ho visto cosa fanno, li buttano l'acqua calda ancora vivi, cavolo, e ne esce la pelliccia, escono senza la pelliccia, e li appendono come gli agnini. Bastardo. Carità. Ho visto quel filmato, mi ha sconvolta, mi gridi. Secondo loro, loro li mangiano. Loro cicano, voi mangiate il maiale, mangiate le pecore. Anche ci sono animali che tipo sono una malugana, cosa mai? Uno che non sono macellati in quella maniera, barbara. Punto. Chi se ne accorgono i cani, non hai visto quello che si è leccato il sangue dopo che l'aveva insecchito? Non so, cioè. Che pena che mi ha fatto quello lì. Oh, là, non me ne raccontate perché no, non mi fa proprio di parlarne. Quelli via Pasqua li avevano chiusi per quello, ma perché ce li avevano trovati i cani. Sono loro cani. Qua come faranno? Ne ammazzeranno i cani di qua sicuramente. Ma è randato. Magari pure un malato. Di lui. Loro mangiano anche il pitone secco. Io sono questo lo dico, mi sa cucina per piacere di Mondetta. Dai, dai, sono brutti cosa male. Ho visto un filmato una volta al televisore di questi negozi cinesi, questi ristoranti cinesi, hanno ammazzato questo serpente. Gli ha tolto il veleno e dice che questo veleno qui fa bene per guarire non so che cosa, miscelato a altra cosa, perché puro fa male, ma miscelato con l'altra roba fa bene al fegato, roba del genere, e se lo mangiano crudo così, come lo ammazzano subito, lo mettono in bicchiere e se lo bevono. Dopo lo scuoiano, lo puliscono come si fa con l'anguilla. E non vado di una bagna, non vado di un sughetto loro. Certamente può essere anche buono perché mangia carne. Non raccomando, eh? E in fuga. E allora in Africa che si mangia i cavalletti. Oh, yeah. Vabbè, altre usate hanno. Io in un documentario ho visto questo qui che mangiava le cavallette vive, ragazzi, mamma mia. Di quelle grosse, mi rimaneva come ti fatti la scimmia, la mangia niente. Guardi, farà bravo, ora so ti faccio parlare. Faccio mangiare il brodino di mammo, eh? Hai capito quello? Metti ti tappi nelle orecchie. Come? È roba schifosa, però sono usante. Già, ma stai ascoltando per caso la... capisci a me? Stasera, stai ascoltando? No. Ma si è interrotto pure. Vabbè, no. Lasciate un attimo già. Era qualcosa di grosso, eh. Cosa già? Che era qualcosa di grosso, poi sono intervenuti un'altra cosa e ha tappato. Oh, vabbè, qua non si può parlare, già è un casino, lo sai, no? Ehi, comunque un pezzo sì. Beh, lo credi. Cosa sì, al computer. Aspetta, già finita una persona che ha prima il computer, aspetta. Comprate un altro. Fatti dare la condivisione, glielo fai tu. Fila, darti la condivisione. E cos'è questa condivisione? Condivisione sarebbe datti del dire, tu devi aggiustare il computer perché non sai come fare. E dico, dammi la tua condivisione, io so i tuoi dati come passo tutta questa roba qua, entro dal mio computer nel tuo, tu stai fermo, io col mio computer muovo la lancetta e faccio tutte le operazioni nel tuo computer. Ah, ho capito, non riuscivo a capire cosa voleva dire. Non mi c'è stato il maschermo adesso. No, perché non vai? Ah, fatti dire da Luca che cosa sta dando la Vodafone. Cosa sta dando la Vodafone? Sì, dal computer, modem, pennina, non so che cosa, tutto per 19 euro al mese. Ciao. Sì, attaccati dal culo. Perché? È convenientissimo, poi il computer rimane a te. Chiappa. Perché no, l'ho provata ed è un chiodo. Alla fine ti danno tutto ma non ti danno niente. Ma questo non lo so se loro si siano aggiornati o che cosa. Non lo so questo, però come offerta non è povera, ecco. Se facciano un computer ti mandano il tecnico loro, c'è un'assistenza la Vodafone, ma l'ho provato anche da poco, mamma mia, ma da meglio niente, l'ho provato anche da poco e cazzo che ginocchi, ma sono di capo, già lo sai, sono buono. L'ho attaccato il pennino e tutto, mamma mia, non tanto nemmeno. Un chiodo. 8 megabyte da. Ma per carità, arriva massimo a 3, 3, 4, ma non di più, eh. I 3, 4 sono pochissimi. Sono pure zene, un giorno, eh. Allora, non lascia perdere. Quindi intanto si blocca, si fa, mamma mia. Io non bisogna contare il servizio anche. Chi lo prende verrà che tornerà la risposta. Ma alla fine dai tutto ma non dai niente. Quello lì che conta, che deve pompare. Beh. Senza limiti, Sì. Chiappa. Pago senza limiti, ne paghiamo 10. Con la Wind. Ma è velocissima. Sì, ma la Wind c'ha le sue pecche. Io l'ho avuta Wind e non prendeva in certi punti. Andavi a Sintino e non ti bigliava, andavi in Chivio e non ti bigliava, invece con la Omnitel non prendevo da tutte le parti. Ma quanto tempo fa facciamo va vedendo? Io vado a Sintino e piglia benissimo. Sono andato, se vuoi testate, sono andato a fare il tour, mi ha sempre preso bene. Cazzo diavolo, ma perché guardiamo il passato? Guardiamo il presente. Io sono questa cosa che c'è adesso, ti sto dicendo che funziona bene, punto. Magari col computer va bene. Cazzo, pure sulla telefonia, se c'è la testina ho telefonato pure. E non sono bugia, se vuoi ti porto anche testimone, te lo porto lì. E magari hanno messo altri ripetitori, adesso non lo so. Però prima era così. Non lo so adesso come sia. E chi lavora, cioè, quando era Omitel, prima la team prendeva di più di loro. E poi ci sono aggiornati anche loro. Anche loro hanno fatto viceversa. Cosa c'entra quello? Logicamente più passano gli anni più si espande. Vabbè, comunque la Omnitel è la seconda, dopo la team c'è Omnitel. Anzi adesso sta andando più della team. Chiappa. E che la Windy sta andando forte. E altro, ma per dire la Omnitel ti dà delle promozioni, ti regala i punti che ti puoi fare i telefonini, ti regala tante cose, messaggi gratis, voice, la voce, praticamente le telefonate gratis, tutto il mese, e sono cose che attirano anche le ragazze, quindi tutti si fa numeri, cioè per quello anche. E scappa, intanto spariscono i soldi, non si sa come, a voglia, che belle offerte. E vabbè, atto. Comunque, per dire, io ho un amico che telefona, un drago telefonando, si è fatto quel telefono che si chiama Galaxy, non so se lo conosci. Già l'ho visto. Ma io non so perché ce l'ho con loro, perché mi sono spariti i soldi, tutto qua. Ecco perché ho cambiato. Anche. Perché solo per quel motivo lì. Ma ce l'ho sempre io la Vodafone, non è che non ce l'ho, però l'ho messa indietro come seconda scheda. Poi a livello di servizio di internet la Wind è veloce, cioè c'è poco da fare, non c'è da discutere. Magari sulla telefonia un po' così, però io l'ho disnessa l'altra scheda, perché mi ci sono stati i rinnovi, mi ci sono stati, tutto qua. E come io, c'è anche un'altra persona che sta nel buffito, hai capito? Tutto qua il discorso. Ma non mi è mancato nulla, io quello che spendo pago e boh. Anzi, me ne hanno sempre regalato in più, perché mi hanno regalato per più volte messi 100 messaggi gratis, che poi non li ho manco utilizzati tutti. Mi hanno regalato telefonate gratis, insomma, qualche cosa, anche i punti mi hanno regalato. Quindi qualche cosa l'ha presa, però io ancora non ce l'ho fatta a prendere uno dei telefoni, non bisogna che mi dia da fare a telefonare un bea, che sennò non è meglio. Chiappa. Ehi, ha fatto telefonare a me un bea, vorrei che la fai. 386 punti c'è oggi, ehi, ma minimo sono 1.500-2.000 punti. Anch'io non lo raggiungiamo mai, non lo raggiungiamo mai quello stato lì. È dal momento che mi è successo quello che mi si sono girate le palle. Quindi da quel momento lì non ho più potuto vedere, no? Poi dopo me la sono ricomprata, però c'ho sempre un punto. L'altro giorno mi è successa la stessa cosa. Ogni volta che telefoni, ma è quello lì successo anche a Babbo. Ogni volta che telefono, telefono qui, mi date delle mani a tutto. Ma in pochi secondi mi telefoni con la moda, con telefono a un indi, telefono un fisso, non te lo pago lo scherzo. Ma tu ho preso un bagotto. Magari paghi di più, magari paghi di conversazione. Ma sì. Allora non hai capito, ma se io telefono un telefono fisso, telefono al mio telefonino, ecco, perché non paghi così? Punto di domanda. Perché non io ho un Intel, io non ho le sue tariffe. La Omnitel ti favorisce con i telefoni Omnitel, infatti ho fatto Omnitel perché io, per dire, mia moglie, mia figlia, i molti amici c'hanno Omnitel, quindi ho fatto Omnitel per quello. Però a me, per dire, telefonare Team, telefonare Wind, eccetera, eccetera, non mi conviene. Allora, io ti ho detto dicendo, però non hai capito quello che ti ho detto. Che questo fatto qua mi è successo solo telefonando alla team, telefonando a un telecom, telefonando a un Windows, a un 3, quello che sia, quello che quel fatto lì non è successo, perché? Chiedere alla casa, non a me, chiedere a loro, ma ti daranno una risposta a loro, non lo so. Tanto, cosa vuoi che ti dica? Ti potrei dire una baggianata, ma non so esattamente perché succede. Chiedi, telefono e chiedi, ci ascolti, dove succede così? Come mai? Come mai? E ti daranno la risposta. Ma quello non so, ma cosa cazzo fa mai vedere? Perché te lo seguo io, perché? Perché sono farabutti e basta, sono solo buoni a rubare, uno Cioè, ma non so solo, non è solo vola. Tutti ladri sono, c'è quello che di più, c'è quello che più di meno. Sono tutti ladri, anche quelli lì. Vedi, prima ti ricordi che quando tu andavi a fare la ricarica, non ti davano mai quella che tu caricavi, se tu dire mettevi 50 euro te davano 48, ti prendevano sempre i soldi di, come si chiama, delle commissioni, là. Adesso non è più così, ma prima era così. Perché ce l'ha fatta, ma pure Bersani ne aveva cavata. Eh no, perché per dire in altre nazionalità non è mai esistita questa cosa qua, solo in Oghi, a chi va a un bidinato. Infatti Bersani ne aveva cavata finalmente, che prima c'erano le ricariche da 3 euro e ne pagavi uno di tassa, te lo ricordi? Sì, sì, me lo ricordo bene, te lo sto dicendo io. Me lo ricordo come. E non era giusto, perché se tu 3 euro pagavi, te lo dovevano dare. Ciappa. Per esempio di tassa, quando ne caricavi 10, ha detto normalmente quant'è la tassa. Sempre pure la tassa era. Se ne caricavano 9, 1 euro ti facevano pagare. Allora. Tassate il tutti, cazzo. Grazie. Già si ricavano. Allora già non viene bene di Magone nella foto. La compagnia già ne hanno sempre lavoro. Viene nel dubbio un asso, subito che si scrive. Sì, ma lui è un giro di soldi. Ma i soldi sono i clienti che li fanno entrare. Ma le sedite qua sono immense. Lo so, sono immesse perché sono tanti utenti. Poi grazie. Però so, non vedi utenti, poi un utente sa benissimo che non c'ha, ne può avere, addirittura ci sono gente che dice gli ha tutte le schede. Quindi c'è sempre clienti, insomma. Tu immaginati se ognuno che c'ha il telefonino avrebbe avuto un portatile 27. Infatti ce ne sarebbero stati, eh? Al posto del telefonino. Tu non l'hai conosciuto, Narciso, noi avevamo un radiotelefono, lo sai? Io già ho conosciuto quel radiotelefono. Ah, l'hai conosciuto? Io ho voglia, così mi avevo portato l'antenna sopra pure. Eia. Me lo ricordo che stava mettendo l'antenna sopra, sia quella della radiotelefono sia quella della radio. Paga. Allora lì mi risultava un po' strano, non l'avevo mai visto, lo sai, un apparecchio così. Non me l'avevo mai visto. Ma prima di vederlo lì acceso non ne conoscevo l'esistenza, mi sembrava così strano, boh. E vabbè, i primi modelli. E tu se ricordi bene, ci sono ancora gli antenni attaccati, erano tutte e due vicino, guarda. No, non erano staccate mai. No, se tu passi le vedi ancora. Non è di VHF. Sì, sono sempre vicino, insomma. Fa K. Ah, bisogna farci questa a prenderla. Quello lì, se te le metti nel ricevitore per dire ascolti un bebè, perché sono V e U. Il tetto, no, certo. No, non so se è questa nuova associazione, se li hanno attaccate loro, non so. E magari, boh, non me lo ricordo se le avevamo staccate, perché poi il VHF lo usavamo anche via Pirandello. Cioè, gli antenne sono sempre lì, la discesa era sempre lì. Quello che usava via Pirandello fino a quando qualcuno ha fatto la soffiata e cose, si è fatti biliardo. Ma è un grandissimo minchione, però. Se lui avrebbe pagato le tasse, li avrebbe messo in regola, non sarebbe successo tutto quello. E vabbè, io l'ho detto più di una volta, io dice no, ma noi siamo un'associazione, lo facciamo a fin di bene, quindi non ti fanno niente. Lo distruggo, vedi. L'anima della finanza. Ciao, ho di Gesù e Gesù che non fanno succedere niente. Va controllato tutti i registri, entrate e uscite, tutti questi registri che avevamo voluto vedere. Ma quello eravamo tutti noi. Poi ha visto la radio, ha fatto favore la concessione di questa radio, la tassa pagata. Adesso ce l'abbiamo la concessione, ce l'abbiamo tutto. Forse devi pagare. Ma poi pago cosa? Quanto si paga la radio? 1200 euro. Quello lì si paga. Io mi ricordo, no, ascolta, io mi ricordo in lire si pagava 1.200.000 lire alla Croce Blu, pagavamo così, a radio e non in totale. Ci avevamo una base e tre mesi. Immagina che quanto pagavamo ogni anno. E invece qui non lo so esattamente, però più o meno dovrebbe essere così, perché quello che prima era mille adesso è un euro, quindi più o meno dovrebbe essere quella la cifra. Certo. Ma a Romanco, cioè non dico tutte, ma Romanco quella della centrale, quella dell'ambulanza, vuoi pagare, cioè, di un'ambulanza, magari per vedere chi sta, la vuoi pagare, cioè. Ma noi ce ne avevamo una alla centrale, una per l'ambulanza e una nel mezzo antincendio, quindi erano tre, quattro radi, più quattro portatili. Noi la usiamo sia qua che in questa ambulanza, organizzare giù e là. Io avevamo quattro portatili. Già, vediamo le ricordo. Quindi, quelli che erano nell'armadio non li hanno visti e non ci erano sequestrati, li abbiamo venduti. Li avevamo venduti a Torre, mi pare, a Torre Lai. Che fregata. E poi, il resto ce l'avevamo tutto sequestrato. Infatti avevamo messo queste qui, 43 MHz, che sono meno male, quelle che usano i tassisti, da, tipo 27, da. E la tassa è uguale alla 27. Sì, le FDA avrebbe fatto meglio. Ci sono antenne molto forti anche per quella frequenza lì. C'è un'antenna che somiglia alla Turbo. Lo so. Ma noi abbiamo messo quella che assomiglia alla Grand Prix, la più scalcita che vedo è un buon sangue. Io vado a cercare la Lignarica. E gli mandavano meglio un caffè e ricevevi da tutte le parti, Antonio. Ciao, so. Avevi fuori, parlavi tranquillamente, tutto l'altro non c'erano problemi. Se ho pagato troppo, se è successo quello che è successo. E adesso ultimamente avevo aggiustato tutto io, avevo rifatto tutto il cavo, avevamo messo il piede, tutto quanto, mi avevamo fatto io e Luca, è venuto Luca a darvi una mano e poi non le hanno più messo la radio. Ne avete più? I radio ci sono, l'abbiamo anche aggiustato, erano rotte due, le abbiamo aggiustate, ce l'ha fatta Vittorio. Ah, tutto a posto con lui, sì, quindi. Sì, sì. Ma la... Dice da un bel. Beh, ero incazzato un bel, io sono andato e ho fatto un casino, eh. Beh, neanche per la figura. Infatti, detto la prossima volta che avete bisogno di queste cose, varrà il sindaco. Chiaro, io dico, a meno se dietro lo faccio, però mi va a fare questa figura. Abbiamo ritirate, quelle radio lì non le abbiamo mai piazzate. Guarda, che... E vabbè, stiamo usando i telefoni adesso. Buttare via i soldi. No, ci abbiamo qualcosa di andare, anzi paghiamo un tanto al mese e li usiamo come radio. E non li usi, stavo lì. Da sono lì. I telefoni li usiamo, ma tutte le... Ci abbiamo i numeri tutti quanti, quando devi chiamare il telefono c'è il numero, voi lo chiami. Già, però ti sto dicendo, se tu non usi il come si chiama, Napa, le radio, come il suo sviluppatore di Napa a comprarle? Infatti. Si sono presi per un alimentatore, gli ho detto, lì c'è l'alimentatore. E aspetta, aspettiamo un po', e tu guardi, io ho dato il sito, tutto qua, dove ordinavo, zac, e nulla, nulla di là. Ma adesso se ne frega un bel quello che c'è. No, c'ha dei... altre cose da pensare, buh. Le radio sono in secondo luogo, per me sono così utili le radio, non devi stare con questo telefono facendo il numero ogni volta, invece con la radio prima un pulsante e via. Vediamo, cabare il domani, io ma poi anche per, non solo per la radio, anche per altre cose secondo me. E vabbè, tu non puoi criticare, tu se non sei all'interno non sai le cose come sono, come fai a dire anche per le altre cose. Le altre cose stanno andando bene, come? Abbiamo un bel servizio da fare. Va andando sia a fare trasporti, sia manifestazioni di tutti i generi, quindi ci abbiamo anche l'ippodromo di cose di Mores, l'appalto. Gappa. Vabbè, tu mi dici così, io ti dico come tutte io le cose le vengo a sapere. Ma tu non puoi dire pomicero se all'interno, non si può criticare dall'esterno se non sei in mezzo. Quando sei in mezzo puoi dire le cose, poi per sentito dire sono sempre cose campate in aria. Gappa. Alcune cose, ho sentito alcune cose, ma ho fatto l'indifferenza. Lasciamo perdere, va. Sì, ho sentito, bisogna vedere chi gli ha detto queste alcune cose, magari sono persone gelose di quello che sta facendo. Non lo so. Ma non voglio entrare in merito a queste cose, quando lo vedo con i miei occhi ti dico chi sono, ma adesso non voglio, ma solo per sentito dire alcune cose, non è che... Cosa hai sentito dire? Parla di tutto quanto, no? Se stai dicendo le cose dimmele complete, così ti posso anche rispondere. Già, però mi faccio capire niente, non sono malattia. E allora non le dirà a metà le cose, perché così lanci la cosa e poi non dici le... o le dici del tutto le cose, non le dici per niente. Gaffa, gaffa. Vabbè, no, non mi interessa nulla, va, arrangiatevi. E comunque, Antu, io ti ripeto, stiamo andando alla grande. Stiamo facendo trasporti, di tutto. Capito? Solo che non è tutti i giorni che c'è gente, quello sì, però quando c'è lavoro, la mattina stiamo lavorando, stiamo facendo un sacco di roba, poi la domenica, sabato e cose, abbiamo manifestazioni tipo basket e cose del genere. Chi ti ha detto altre cose ti ha riferito male, o è geloso o è di qualche altra associazione che magari ha paura che gli facciamo concorrenza, come abbiamo sempre fatto. Sì, se di voi non fa concorrenza, voi fate il vostro lavoro e basta, non è che... Penso che ce ne sia qualcun altro che lavorano come lavorano loro, come lavorate voi, già. Voi fate il vostro, gli altri fanno il loro. Cito. Già mi sa che sia così. Tu non ci sei mai stato al campo del volontariato, non sai come funziona. C'erano dei periodi che noi non tornavamo, e tuo padre te lo può confermare, non tornavamo manco in sede, facevamo la barella direttamente al pronto soccorso da un servizio all'altro, e non era nessuno di sicuria, eravamo i più forti che c'eravamo a Sassa. Gaffa, a chi ci sente? Bisogna sapere anche il dopo, quando se n'è andato... è sprofondato pure, quello non lo diciamo. Beh, cosa vogliamo dire, Antonio? È arrivato tutto, tu dici che il passato non lo guardi, è rinato tutto quanto, quindi il passato non si guarda, adesso si guarda il presente. Ciao. Quando si hanno certi elementi, guarda che io le cose le sogni, non è che non le so. Poi per qualcuno che non voglio fare i nomi, per farvela apposta, mi ha pigliato tutto. Tanto sono cose che ti ho detto io, quelle lì, non è che le sapete da nessuno, te l'ho detto io. Non me l'hai detto tu, no. Ho saputo da un'altra persona, la ti preoccupare. Già le so le cose io, non è che non le so, ma comunque non me ne fate nulla. E se quella persona ti ha detto che si è fregato tutto, non ci ha detto anche il resto, ti dovrebbe dire tutto quello che ha fatto. Ti ha fregato, sì, vabbè, non voglio stare nel particolare. Infatti, sono cose passate, a me non mi interessano nemmeno quello. A me interessa il presente, ma adesso mi sono riscritto, mi sto facendo i miei servizi quando me li devo fare, non è che stanno ogni giorno, ma quando devo fare servizi è buco. Esattamente che sì. La gente che ci dia è tutta quanta molto preparata. Ci sono gli istruttori da noi, capito? Ci sono gli infermieri professionali e ci sono anche i dottori, quindi non sono più vivini come in altre associazioni. C'è di tutto. Ne abbiamo due che si sono laureati come dottori e uno come infermiera professionale, quindi abbiamo anche personale molto specializzato. Beh, quello lì è una cosa buona, perché secondo me il dottore in ambulanza è sempre fondamentale, perché a Romanco tiene più tranquillo a te anche. Sì, vabbè. Diciamo che quello lì era un volontario che adesso è diventato dottore e fa i servizi lo stesso, quindi c'è scritto dottore nella divisa, l'altro c'è scritto infermiera professionale. E anche l'infermiera professionale non è da buttare, è una mini laurea. Grazie. Sì, ma il mio pensiero è che quando c'è un dottore in un'ambulanza, se, questo è il mio parere, è sempre meglio, perché sa che decide lungo il momento, sa che cosa fare e tu sei più tranquillo, ma quando c'è una persona che non è molto, è preparata sì, ma non è un dottore, soprattutto se stai portando una persona grave, non è bello. No, non è al 100%. Si fa lo stesso, però no, è sempre meglio se c'è una persona adatta. Competente. Ma prima era così, adesso no. Adesso ci sono i volontari che ci sono, hanno fatto tutti i corsi all'ospedale. BLS, BLSD, trauma, primo soccorso, tutti i corsi che ci fanno i dottori. Sono tutti volontari che hanno fatto tutti questi corsi, perché se no l'ambulanza non salgo, da noi perlomeno. No, adesso sono tutti così, se non è così lì, un cavolo che ne fanno fare. Poi soccorso, come primo soccorso, guarda, lo so per certo, anche dove si pare mio, non te ne fanno fare, manco scherzando. E allora, come vedi, tutto questo personale preparato, non sono più lì. Naturalmente devi sapere nel momento, devi reagire e comportarti come devi, come ti hanno insegnato. Quello sì. Poi ci sono dei casi che magari serve anche il dottore, perché se deve fare un arcano, una cosa, un'iniezione, tu dici bene che se c'è un dottore è sempre meglio, perché noi, per dire, non possiamo fare iniezioni. Addirittura non possiamo prendere manco la glicemia, ma lo facciamo lo stesso. Certo, lo fai, però nel caso succeda qualche cosa e appurano che è successo per colpa di quella cosa lì, sono cazzi. No, lo fai lo stesso, per dire, prendere la glicemia all'iniezione, no. Ma prendere la glicemia, l'iniezione, cioè abbiamo l'infermiera professionale, se c'è di servizio la fa lì ed è autorizzata a farla. sapere se prende una glicemia, se che uno è un diabetico e già è in coma diabetico, cosa del genere, tu li prendi la glicemia per vedere quanto ce l'ha, non è che succede nulla. Quando arrivi all'ospedale gli dai già i parametri di quello che ha, pressione, glicemia, tutto qua. Sì, vabbè, per quelle glicemie sì, ma secondo che cosa è, le cose sono ben diverse. Se per dire un'overdose devi fare fettare all'ospedale, perché gli fanno il narca, e lì se non c'è un'infermiera professionale o un dottore non glielo puoi fare. Quello di lei si l'aveva rallentato l'ambulanza. Vabbè, tanto. Io parto dal punto che sono vite umane, non dal punto che sono tossici o roba del genere. È una vita umana da salvare, poi quello che sono è peggio per loro. Giappa. Vabbè. Guarda, sì, quello sì. Però quello che mi fa girare sulle palle è che te l'hai provocato tu. Se tu non avessi fatto quello lì, sei stato tranquillo. E quello lì mi dà solo fastidio. Poi c'è salvarlo o non salvarlo, va bene. Però quello che mi fa più incazzare più di tutti è che magari succede un infarto a un babbo di famiglia con il figliore minore e crepa e ghisi, chi si incazza arriva in esempio. Quello lì mi fa imbestialire, mi manda in bestia, guarda. Niente, non siamo noi che lo decidiamo quello, quello lì è una cosa che non decidiamo noi purtroppo. E poi non è fatto. Sei fulminante, se rimane in chiva. Chiappa, a chi te imbecille arrivi in centro, è quello lì che mi dà fastidio. Magari la lascia la moglie, due figli, cioè lo dai giochi da lavoratore, cose, eccetera, eccetera. Cioè, visti che stanno in chiva lampati da 90 anni alla sera, non fanno altro che bere birra e andare a rompere le palle al prossimo. Cioè, sapere che è un pericolo, non riesco a capire che cavolo di mondo viviamo. Ma voi come ti si capite di salire a casa, babba lì, d'estate invece comprano la birra a casa da noi, si mettono una bella di fronte. Come a voi come stanno i gusti? Uno non le farà da... C'era bagnato una birra, no? E la sapeva via guada sotto il giubbotto. Mentre la bagnato di chi se la da bagnare di là e le farà da glassa da sotto il giubbotto. Il minimo se la fuggito. No, è tu cazzo che è giù da me, voglia. E dice adesso la paghi, gli ha fatto pagare la bottiglia e l'altra non è l'altra perché non c'era sotto. Poco rubano, aspettano che nel negozio ci siano poche persone, perché a una certa ora il turno sono poche persone, sono due o tre, aspettano quello, lì dentro, arrivandosi non dai tutte le commesse, pigliano, entrano e rubano whisky di tutto. Di compa, sì, accesiato una fula di birra anche. Pagappa. E vabbè, purtroppo, ma loro sarebbero voluti così, sembrare il randagno, tutti brutti, tutti bussi mai. Si sono voluti tutti, non è che non si sono, sarebbero voluti, no. C'erano macchine che portano in capo. E che sono caduti in un tunnel e magari nemmeno loro avrebbero voluto che fosse così. Inconsciamente avrebbero preferito essere persone normali, io non penso. Perché a me di 10 giorni non mi può passare manco parlando in camera. Già non mi interessa niente, non mi interessa soldi e basta. Soldi, salute, un mio lavoro, una mia casa e una mia famiglia, boh, non me ne frega niente dell'altro. No, dici, e se cade in qualche maniera di risolvermi i problemi. E tu, per loro la vita ha riservato quello, purtroppo, sono gente sì che saranno cercata loro, perché naturalmente l'hanno fatto, ma magari la gente debole, gente con problemi, che non è riuscito a magari debole di carattere, non è riuscito a risolvere le cose, magari si è dato queste cose qua. Tanti sono anche delinquenti, sono delinquenti che si vade, che hanno la mala prima e adesso si fanno pure. Sì, ce l'abbiamo avuti problemi, pure noi ce l'abbiamo avuti problemi, ma se li ha vero però, di tutto, eppure siamo riusciti a passare. Niente, lo sai cosa c'è? Che uno magari più forte di carattere ce la fa, e c'è quello che più debole si lascia andare, capito? Ho pagato. Ecco. Infatti loro sono. A me non interessa farmi il mio per l'indomani. Se ci riesco, pure, devo chiedere sto pazienza. Beh, perché non ci deve riuscire, volere potere, diceva quello. Arrivata a questi tempi, tu chi lo sa? Adesso vorrei prendere una casa, prendere, sposarsi, fare tutte queste cose, è diventato un grosso problema. A me mi interessa sistemarmi, mi interesserebbe sistemarmi, farmi una mia attività e farmi una famiglia. Boh, non me ne frega niente dell'altro, è quello che ho sempre desiderato. Certo, io ti auguro di riuscirci a farlo, ma sempre con la storia di casa discografica. No, sempre una cosa di qualcosa del genere, sempre una cosa, no, a parte tutti gli scherzi, mi sarebbe piaciuto avere qualcosa del genere e via, guadagnare bene e avere quello che non chiedo altro. Un bel service da affittare. Affittare, è roba mia che da affittare. La roba tua. Soprattutto io. Come voglio, vengo a fare lavori per loro. No, non mi hai capito, da affittarli tu agli altri. Ma quello sì. Io guarda, dice, quando tu lo affitti a un'altra persona non ci metti lavoro e nello stesso tempo, guadagni. Momenti, apparati, tutta questa roba, ma come ti avevo detto l'altro giorno? Sì, ma è un negozio misto, cioè se tu metti roba musicale non la metti di apparati, solitamente sono divisi. Cioè l'hi-fi da una parte e gli apparecchi radio dall'altra. Ma questa roba così. Paga, niente, muoviti. Cerca, fai. Se stai fermo non ci riesci. Ma se ti dai da fare magari. Adesso stanno andando anche. Per chi apre però la sassa di vecchio, andando la sassa di vecchio che la fa valorizzare. Stanno dando dei prestiti regionali a fondo perduto. Roba del genere avrei voluto fare sempre. Roba del genere. Quindi se lo fai al corso non è male, se questa serie vecchio è, ti danno un tanto a fondo perduto, un tanto lo metti tu, magari cominci con un negozietto più piccolo, poi ti ingrandisci, cosa metti? Certo, pure quello è vero. Non è che bisogna abbassare sempre quelli capannoni, c'è gente che dal negozietto piccolo è andata a farlo grande e poi ha fallito. Prima bisogna incrementare con il piccolo, ma bisogna incrementare bene, poi con il grande. Bisogna sempre andare avanti. Beh. E magari si riesce con un negozio così, se si fanno dei prezzi buoni, si riesce anche a incrementare la frequenza, perché quando tu vendi tanti tipi di apparati, c'è quello che viene a vedere una cosa, c'è quello che cos'è, si chiama baracchino, perché cosa si usa? Si riesce a incrementare anche quello. dove alla fine le metti anche sul sito. Sul sito è. Se non lo prendi qua lo prendi fuori, però lo prendi. Perché se ti prendi, ti prendi, perché se c'è anche tu ce l'hai se lo compra. Il cliente è interessato. Cioè, se lo tratti bene, non lo prendi, non prendi un giro per comprare la sette. Vabbè, come fa Tecno? La stessa cosa, la stessa cosa. Sono sicuro che in giro di pochi anni avrei venduto molta roba, molta merce. Ma poi avrei venduto anche roba musicale, roba così. Sono sicuro che avrei fatto soldi. Lo dici di tutte queste cose qua, io ho capito cosa volevi mettere. E tu. Buttarsi bisogna. Ragazzi, sono sicuro che un giro di pochi anni avrei incrementato soldi sul serio, facendo una cosa del genere. Che lo vendi sempre. Vabbè, se poi uno si comporta bene, fa prezzi accessibili, si ingrandisce anche la clientela. Cappa, se poi tu i prezzi ce li hai, se li fai arrivare seriamente, ce l'hai, lo vendi, c'è poco da fare, perché c'è sempre qualcuno che servirà i prezzi del ricambio di qualsiasi cosa che sia. Che ricambi? Allora, componentistica, tutto. Allora ci vuole un negozio grande, tutta questa roba dove la metti? Ci vuole un bancone, con tutti i cassettini per metterci tutti i componenti. Se ci vuole qualche vetrina per mostrare anche gli apparati, di modo che attirino. Caffa, tutta quella roba lì. E poi strumentazione, strumenti musicali, amplificatore di ogni genere, cose, coni di subwoofer, coni audio, di tutto. Dio, vabbè. È una bella idea. Ma tu l'altro giorno lo sai che cosa ho sentito a 105? Questa ragazza che ha telefonato da Cagliari. Gli ha detto che lavoro fai, te un po' mi vergogna a dirlo. Che lavoro fai? Sono andato a lavorare, gli ha detto, che lavoro fai? Sono coltivatrice di zucchine. Ha detto che praticamente non aveva lavoro e se l'ha inventato lì. Coltiva le zucchine e le vende al mercato all'ingrosso. Bene, e cosa deve fare? Che il padre aveva un terreno nella eredità e questo terreno ci lavorano lui, lì è il ragazzo e un'altra amica, in tre. Se non hanno soldi ha fatto benissimo, le coltiva, le fa e le rivende, sono soldi sempre, si campano. Ha detto, come mai sono zucchine e non altre cose? Perché le zucchine sono quelle che vengono di più, crescono prima, tutto quanto. E ho appurato che vendono di più. E in più dice che nel mio terreno non è che sia grandissimo, ci stanno quelle e basta. Se ci metti per dire angurie, ce ne stanno di meno. Certo. Però alla fine quando è periodo le vendi lo stesso, non è che non le vendi. E ogni giorno deve fare chilometri tra Cagliari e Grigia, se c'era lì il terreno. E poi vanno i camion, le caricano, le preparano con il ragazzo e con la ricca, le preparano nelle cassette e va il camion e se le ritira. Cioè, oltre al lavoro bisogna arrangiarsi, ecco. Bisogna arrangiarsi e lavorare, fare tutto per fare il sonno. Poi con voi niente non sei entrato in campo. E bisogna che invece niente pure che non vanno sui panza, perché i zucchi devono essere tagliati, quelli non fatti solchi, vorrei zappati e fatti. Lo so già. Vuol dire che sono persone che si sanno piegare le maniche. Allora, alla fine un indomani fanno qualcosa, se ci sanno fare. E magari si fanno un'azienda grande, magari si fanno le serre e si piantano altra roba. Ciao, è così. magari si tengono i soldi in tasca per un domani, fanno solo quello. Infatti. Non è che c'è. C'è il marito di un'amica mia che hanno solo terreni, coltivano carciofi, ma loro c'hanno di tutto, angurie, carciofi, peroni, tutte queste cose qua, secondo la stagione che fanno la coltivazione. Insomma vanno tutte case belle, bellissime. Grazie. Ma vendono anche il mercato, anche fuori vendono, no, no, solo qua in Sardegna. E fuori? Qui ci sono un po' di dinamiche, sembra così, ma sono soldi. Caffa, beh, io sto chiudendo, ti auguro buonanotte e ci sentiamo domani. Buon lavoro per domani e buonanotte, ciao ciao. Ciao, buonanotte, ciao ciao.